Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Dopo aver spaventato in dicembre migliaia di cittadini e molte famiglie italiane, già alle prese con lavori di ristrutturazione energetica, il governo ha fatto dietro fronte sulla questione delle detrazioni del 55% che avevano rischiato di scomparire sotto Natale. Tutto è tornato come prima o quasi. Sul tema oggi è pubblicata la guida operativa del Sole 24 Ore che spiega quali sono gli interventi che il decreto anticrisi ha apportato alla materia. Tanto per citare alcuni esempi, le spese sostenute dal 2009 in avanti, da quest'anno in avanti la detrazione sarà ripartita in 5 anni anziché 3 come in precedenza. Resta dovuta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ma per usufruire di questo bonus non si dovrà più attendere che l'Agenzia verifichi la sufficienza dei fondi disponibili da parte del Ministero dell'Economia. Insomma, tutti i punti sui quali stamattina torneremo un po', speriamo, a chiarirci le idee. Ovviamente avvalendoci come sempre anche avvalendoci dei vostri stimoli, 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, che saranno i nostri interlocutori questa mattina per, come dire, il profilo tecnico. Ben ritornata all'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Buongiorno e buongiorno anche grazie al dottor Marco Zandona, esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Eccoci a noi. Buongiorno e grazie. Allora, numero verde e il numero per gli sms li ho ricordati, andiamo agli altri numeri, quelli della borsa, che stamattina sono numeri negativi, come dicevamo, però le cose rispetto alla partenza, che era un po' più pesante per l'Europa, stanno andando un po' meglio, stanno risollevandosi gli indici del vecchio continente. Abbiamo adesso un calo che è di circa lo 0,7%, a Parigi, Francoforte, meno 0,36%, Londra sta addirittura riportandosi sulla parità. Milano invece continua ostinatamente ad essere la peggior piazza d'Europa, quest'oggi sta perdendo lo 0,8% sull'S&P MIB, lo 0,59% sul MIPTEL, ancora sotto pressione molti titoli del settore bancario. Abbiamo anche l'attesa per l'appuntamento di Francoforte con la Banca Centrale Europea, ma oggi non ci sarà nessun intervento sui tassi di interesse, a meno che non succeda qualcosa di straordinario, ma lo vediamo abbastanza improbabile, perché il governatore Trichet ha fatto già ampiamente capire nelle scorse settimane che un nuovo intervento di riduzione dei tassi, se ci sarà, ci sarà non prima di marzo. Piazza Affari oggi titoli in rialzo, in pregilo più 5,59%, Tenaris più 3,36%, Parmalat più 2,71%, recupera il lusso, Luxottica più 2,19%. Il gruppo stasera comunicherà l'andamento delle vendite del quarto trimestre dello scorso anno e quindi insomma anche un test importante per i consumi del gruppo, sia nel nostro paese ma ampiamente esposto su scala internazionale. Atlantia più 1,65%, abbiamo un rialzo di un punto per l'Espresso, per Saip, mentre in rosso c'è oggi Intesa meno 2%, Fiat meno 2%. Il titolo, sulla scia dell'attesa per il piano di sostegno al settore auto, aveva corso molto negli ultimi giorni, oggi si riferma, vedremo domani come sarà definito dal governo questo intervento molto atteso. STM meno 1,90, Generali, Buzzi, Unicem in calo di 1,5 punti. Euro su dollaro a 1,2860, questo è il quadro per quello che riguarda la borsa. Noi però andiamo subito al tema di questa mattina, ritorniamo ancora sul bonus energetico, quello del 55% destinato a quei contribuenti impegnati in lavori di e riqualificazione energetica della propria casa. Dopo aver allarmato migliaia di cittadini già alle prese con lavori di ristrutturazione energetica delle proprie abitazioni, il governo ha fatto dietro fronte, confermando il bonus del 55% anche per quest'anno e per il 2010. Tutto è tornato come prima, o quasi. L'unica sostanziale differenza è che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 in avanti, la detrazione sarà ripartita in 5 anni anziché 3 come in precedenza. L'altra novità riguarda invece la comunicazione che il contribuente dovrà fare all'Agenzia delle Entrate, analoga a quella prevista per le detrazioni del 36%, anche se i termini e le modalità di come effettuarla saranno stabiliti da un provvedimento che verrà diffuso entro il 28 febbraio. Resta invece l'obbligo di inviare all'Enea la documentazione tecnica. Nessuna retroattività, infine, per chi ha affrontato le spese nel 2008. Per chi ha svolto i lavori l'anno scorso, infatti, esiste ancora la possibilità di scegliere in quanti anni spalmare l'agevolazione, da un minimo di 3 a un massimo di 10. A fare da riferimento sarà la data di pagamento, quella cioè in cui è stato eseguito il bonifico, che dovrà essere avvenuto entro il 31 dicembre 2008. Se le spese sono state sostenute nel 2008 ma i lavori non sono ancora terminati, si potrà comunque iniziare a beneficiare dello sconto fiscale già dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2008, a condizione che si predisponga una semplice dichiarazione in cui si attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Allora, un gran sospiro di sollievo, come dicevamo, per tutti coloro che avevano tremato a dicembre quando avevano corso il pericolo di non vedersi riconosciuto questo bonus, ma avevano già avviato dei lavori molto importanti per la propria abitazione. Tra l'altro, il Sole 24 Ore ha pubblicato più volte in questi giorni delle stime sul bilancio 2008. Ci sono state 185.000 richieste per ottenere il bonus fiscale del 55%. In realtà, sul bilancio definitivo dell'anno che si è appena concluso bisogna attendere la fine di marzo. In ogni caso, il boom delle domande sulla scia di quello che stava accadendo è arrivato proprio in dicembre. L'ingegner Valeria Erba, la risaluto di nuovo, presidente dell'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Quali sono mediamente i lavori più diffusi che si fanno per poter ottenere questa agevolazione fiscale? Ma diciamo che negli ultimi 2 anni sicuramente c'è stato un boom di quella che è la sostituzione dei serramenti, perché fondamentalmente è la cosa più semplice da fare per affrontare un lavoro. È la cosa più semplice che spesso e volentieri dà forse anche più risultati, perché comunque il serramento è uno di quei punti deboli dell'edificio a livello termico, quindi sicuramente danno un buon risultato. Anche altri interventi a livello condominiale sono stati portati avanti, tipo il rifacimento del tetto, piuttosto che il rifacimento delle pareti esterne con dei cappotti termici. Sono tutti lavori che grazie a questi incentivi è stato possibile portare avanti. Meno male che questi incentivi sono continuati e la lotta che abbiamo portato avanti noi con altre associazioni a dicembre e quant'altro è servita a qualcosa, almeno sembrerebbe per ora. Infatti, anche se comunque qualche novità c'è stata e c'è una distinzione abbastanza chiara fra chi ha già eseguito i lavori nell'anno che si è appena chiuso e chi invece si accinge ad effettuarli. Non cambia niente nei termini appunto del rimborso fiscale previsto, cambia però nelle modalità di erogazione. Allora, Marco Zandone, ancora buongiorno, abbiamo il nostro esperto di questioni fiscali. Intanto questa detrazione non la possiamo più vedercela riconosciuta in 3 o 10 anni, che era diciamo l'arco temporale previsto prima. Adesso abbiamo un tetto fisso di 5 anni. Sì, effettivamente questo potrebbe portare dei problemi ai soggetti cosiddetti incapienti, perché qui parliamo di una detrazione d'imposta che compete fino all'importo dell'IRPEF, quando parliamo di persone fisiche, dovute nell'anno. Quindi se io ho dei redditi chiaramente inferiori e non posso più spalmarmela in 10 anni, la parte di bonus che non riesco a recuperarmi in sede di dichiarazione dei redditi andrà persa e non potrà essere portata a scomputo degli anni successivi. Ecco, anche perché io tra l'altro molto banalmente pensavo che prima la detrazione fiscale fosse spalmata dai 3 ad un massimo di 10 anni, perché spesso si tratta di lavori molto impegnativi dal punto di vista economico, quindi magari il Ministero dell'Economia non è in grado di poter rimborsare il 55% in 3 anni. Invece c'è anche proprio la questione della capienza fiscale del contribuente, Zandonà, che è molto, molto importante. L'essenziale è quello. È chiaro che i lavori energetici sono anche, a parte gli infissi e le caldaie, possono essere anche interventi più strutturali. Pensiamo al cappotto dell'edificio, quindi che comportano un esborso finanziario notevole. Ovviamente questo si cumula ad altre detrazioni che uno può avere, pensiamo a un interesse passivo sul mutuo, pensiamo alle spese mediche, e quindi se ha un IRPEF limitata, diciamo, il problema è proprio come spalmarlo. Prima nel 2007 potevo spalmarlo solo in 3 anni, e quindi costava da una parte, c'era un impatto per l'erario maggiore, e dall'altra ovviamente ne potevano beneficiare maggiormente coloro che avevano redditi più elevati. Poi il passaggio da 3 a 10 consentiva chiaramente, in base al proprio reddito, di optare per 4, 5 fino a 10. Adesso c'è questa obbligatorietà in 5 anni e per importi notevoli ci potrebbe essere dei problemi seri, soprattutto per i soggetti che hanno un reddito complessivo inferiore. Come si gestiscono quei casi qualora si verifichino, Zandonà? Ma in questi casi il consiglio che si può dare è che se si tratta di spalmarlo tra più soggetti, cioè nel senso che, fermo restando che gli importi di detrazione sono complessivamente per l'intervento, quindi 30, 60 mila o 100 mila euro, quindi complessivamente per l'intervento, se ci sono ad esempio due coniugi o dei familiari conviventi o comproprietari, di spalmarlo tra i diversi soggetti. In questo modo ciascuno dalla propria dichiarazione dei redditi può recuperare il massimo del beneficio. Insomma, l'importante è saperlo sin dall'inizio, magari fare un po' un punto esatto. della situazione, non solo dal punto di vista del preventivo dei lavori che vanno eseguiti nella propria casa, ma anche fare proprio anche un po' di chiarezza nell'ambito della propria situazione, come dire, come contribuente, esatto. dal punto di vista fiscale. Abbiamo scongiurato anche questa ipotesi che dovessimo metterci in coda a chiedere questo bonus Zandonà all'Agenzia delle Entrate con questa richiesta telematica che aveva davvero spaventato non poco. È una sorta di bancomat, nel senso che dalla data d'inizio praticamente del funzionamento del meccanismo informatico uno doveva fare questa comunicazione, poi c'era ovviamente un silenzio di diniego, quindi una procedura che avrebbe portato il primo giorno di apertura del meccanismo a un intasamento proprio dei terminali anche dell'Agenzia delle Entrate, quindi sembrava anche poco eco dal punto di vista della giustizia anche. Infatti, però insomma facciamo così, solamente una considerazione su qualcosa che per fortuna poi non è andato avanti. Avvocato, ingegnere Erba, le quattro grandi aree di intervento che sono contemplate nell'ambito appunto di questo bonus energetico, abbiamo parlato prima degli infissi, però in realtà i lavori eseguibili sono molto ampi. Per riassumere molto velocemente, sono quattro ambiti di intervento. Uno riguarda una riqualificazione energetica totale dell'edificio, quindi in questo caso, che è il primo caso, che è il comma 344, se io riqualifico energeticamente il mio edificio completamente, riducendo il fabbisogno energetico globale dell'edificio entro un certo limite, io tutti gli interventi che ho fatto possono rientrare nella richiesta delle detrazioni per tutti gli interventi, e questo è il primo caso. Il secondo caso riguarda gli interventi parziali, ossia rifaccio i serramenti, rifaccio la copertura, faccio il cappotto termico o quant'altro, e questo è il secondo caso. In questo caso la struttura che io vado a modificare deve rispettare determinati limiti, anche in questo caso di resistenza termica. Rispettati questi, posso detrarre le spese di questo intervento. Il terzo ambito di applicazione riguarda gli impianti, quindi la sostituzione di impianti preesistenti con impianti più ad alta efficienza, che nel 2007 c'era solo la caldaia a condensazione, adesso anche si parla di altre tipologie di impianti ad alta efficienza, tra cui anche le pompe di calore e quant'altro. L'ultimo intervento è l'installazione di pannelli solari, questo è il quarto intervento per cui è possibile richiedere le detrazioni se queste tipologie di pannelli sono fatte in un determinato modo, ecco, certo. Ci sono delle specifiche tecniche. Ovviamente precise. Individuiamo con grande attenzione il tipo di intervento e in che tipologia ricade, perché a seconda del tipo di intervento evidentemente la detrazione è differente. Certo, è differente, c'è anche un tot di detrazione dai 60 a 100 mila euro quant'altro. E infatti poi magari ci ritorneremo, nel frattempo però microfoni aperti ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Si è subito prenotato Enrico da Modena, che saluto e ringrazio di essere con noi. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo chiedere semplicemente un'informazione, perché ho iniziato i lavori di ristrutturazione che ha riguardato sia l'aspetto energetico che strutturale dell'edificio nel 2007. Sì. Li ho terminati nella prima metà del 2008 e niente, presentando tutti i documenti e quant'altro, ho avuto la prima tranche di rimborso dell'IRPEF su circa 1000 euro e niente, volevo sostanzialmente avere la garanzia che questi rimborsi, siccome io ho utilizzato tutto il massimale a mia disposizione, fossero garantiti nei prossimi anni. Enrico, lei credo che sia proprio al riparo da qualsiasi tipo di rischio, tra l'altro ha veramente completato tutti i suoi lavori in tempi non sospetti, se è in regola, se ha già Zandonà, addirittura è arrivata la prima tranche, quindi il fisco ha riconosciuto che il nostro ascoltatore è assolutamente in regola con tutta la procedura. Immagino. Questo era un intervento a cavallo sostanzialmente tra il 2007 e il 2008, quindi in realtà non era neanche il periodo problematico. Insomma. No, nel 2008 ovviamente ha detratto la prima quota, la prima rata degli interventi eseguiti e dei bonifici pagati nel 2007. Nel 2008, se il decreto non fosse cambiato, aveva il problema ovviamente per la quota delle spese sostenute nel 2008. Adesso invece l'ascoltatore non ha assolutamente problemi e potrà continuare a inserire quelle di dichiarazione 2009 avrà diritto alla seconda rata delle spese sostenute nel 2007 e alla prima rata delle spese sostenute nel 2008. Allora, la prima regola per poter ottenere il bonus, intanto mettiamoci d'accordo con un'impresa seria alla quale dobbiamo fare i bonifici, no? Sì. Zandonà, perché innanzitutto i bonifici bancari non possiamo pagare senza nessun altro strumento. Fatture, sì. Esatto. Le fatture con l'indicazione del costo della manodopera, che è un altro elemento essenziale per il riconoscimento della detrazione. Quindi questa è la prima, il primo aspetto da tenere in considerazione. Secondo, e qui magari mi faccio aiutare da Valeria Erba, l'attestato di certificazione energetica, secondo passaggio fondamentale per avere diritto al bonus. Sì, allora in realtà sono due a livello diciamo forse più tecnico che non fiscale. Uno è l'asseverazione di un tecnico qualificato che mi definisca che l'intervento che ho fatto rispetta i limiti previsti per la legge per poter chiedere le detrazioni. L'altro elemento, e purtroppo questi due spesso si confondono, è proprio l'attestato di certificazione o qualificazione energetica dell'edificio. Questo attestato di certificazione in Lombardia è obbligatorio, in altre regioni no. Deve essere fatto per quasi tutti gli interventi, ad esclusione dell'installazione dei pannelli solari e della sostituzione dei serramenti. Per questi due interventi, installazione di pannelli solari e sostituzione dei serramenti, serve solo l'asseverazione del tecnico. Per gli altri interventi serve l'asseverazione del tecnico e l'attestato di certificazione energetica in Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. In tutte le altre regioni basta un attestato di qualificazione, che è un documento diciamo forse più semplice. Il tema è capire quali sono i soggetti che sono deputati a fare queste due certificazioni diverse, chiamiamole, perché anche l'asseverazione, esatto, la possiamo definire in questa maniera, credo. Esatto, sì. L'asseverazione deve essere un tecnico qualificato, che può essere un ingegnere, un architetto, che comunque sia qualificato a definire che l'intervento è stato effettuato e rispetta i limiti previsti dalla legge. Nel caso della sostituzione dei serramenti può essere anche chi fornisce il serramento, ecco, questa è una casistica. L'attestato invece di certificazione energetica deve essere fatto da un professionista accreditato dalla regione come certificatore energetico, laddove c'è l'obbligo alla certificazione, ripeto, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna. Nelle altre regioni può essere sempre lo stesso tecnico abilitato, diciamo ingegnere, architetto, geometra, perito, diciamo tendenzialmente sono questi scritto all'ordine o all'albo professionale, che mi fanno una dichiarazione sempre di calcolo sul fabbisogno energetico, però non è necessario che sia accreditato dalla regione. Perché le regioni disciplinano in maniera diversa questo aspetto? Secondo perché voi i tecnici è un problema? Può essere un problema perché sono diverse proprio anche le modalità. Purtroppo già la legge Bassanini e poi dopo anche il decreto 192 all'articolo 17 ha dato possibilità alle regioni, anzi ha dato obbligo alle regioni di legiferare in materia di energia, cioè è la regione che deve legiferare in materia di energia. Laddove la regione non l'abbia fatto si rifà alla legge nazionale, laddove la regione l'ha fatto, e sono queste tre che in questo caso l'hanno fatto, allora chiaramente vale, dobbiamo quello che è riferirci ai provvedimenti regionali. Sandra da Biella, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Ringrazio di avermi chiamata. Grazie a lei. Io volevo per cortesia sapere, ho una casa ereditata ed è a mio nome. In caso appunto, dato che abbiamo intenzione di ristrutturare caldaie e tutte queste cose, la cifra penso che venga un po' alta. Si può spalmare la riduzione, questa agevolazione, anche col marito? Sandra, allora sentiamo un po' il nostro esperto di questioni fiscali cosa ci suggerisce di fare, come si può muovere. Zandonà. Sicuramente sì, ovviamente dobbiamo parlare di interventi eseguiti su un edificio residenziale, cioè su un'abitazione. Allora, in questi casi l'agevolazione, così come avviene per l'altra detrazione, quella del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, può essere ovviamente distribuita con i familiari conviventi, intendendo per tali il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il terzo grado. L'importante è che i soggetti convivano, quindi risultano non conviventi nella stessa abitazione. Gli interventi possono riguardare però anche un'altra abitazione diversa dalla principale in cui si è esplica la convivenza, come ma un'abitazione, sì. Esatto, come nel caso specifico, a disposizione ovviamente della famiglia, quindi può essere una seconda casa o una casa ereditata in questi casi. Benissimo, quindi Sandra, insomma, quello che abbiamo potuto capire, può ricevere questo bonus anche con i tetti massimi, distribuendoli fra lei e la dichiarazione dei redditi di suo marito. Antonio da Vicenza, invece, qui è una domanda per l'ingegnere Erba. Antonio. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo proporre il mio caso, cioè io devo rifare praticamente la copertura del tetto, rifare le tegole, e volevo mettere, cioè l'impresario mi ha detto di mettere un materiale isolante termico, per cui chiedo se questo va anche a vantaggio della retrazione del 55%. Antonio, aspetti lì un attimo, sì, ingegnere. Sì, Erba. Buongiorno. Allora, rifacendo comunque il manto di copertura, che siano le tegole, per legge dovrebbe isolare l'edificio, proprio perché c'è la legge 311 che impone questa cosa. Rifacendo l'isolamento termico, lei, se l'isolamento termico è fatto in modo da rispettare determinati limiti sulle dispersioni energetiche, lei può richiedere le detrazioni del 55% facendo tutte le procedure che abbiamo quindi detto. Quindi asseverazione, certificazione energetica obbligatoria in questo caso, e poi la domanda all'Enea. Ecco, esattamente, esatto, perché ancora non abbiamo affrontato anche tutta questa seconda parte della questione di cui stiamo parlando questa mattina. Tra l'altro, per quello che riguarda proprio la questione da porre all'Enea, mi pare che nulla sia cambiato rispetto alla disciplina precedente, no? No, attualmente i modelli sono più o meno gli stessi, hanno fatto dei modelli anche un po' più semplificati per alcuni interventi tipo la sostituzione dei serramenti, è solo per via telematica, bisogna mandare tutta la documentazione e basta, è rimasto un po' tutto come prima per ora. Esatto, adesso però aspettiamo anche questa ulteriore comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Cerchiamo di capire nella seconda parte di Salva Danaio che cosa dovrà stabilire appunto questo provvedimento. Tra l'altro abbiamo avuto modo di testare anche che poi gli interventi dell'Agenzia delle Entrate, come ieri per il bonus famiglia, sono a volte molto incisivi e forzano anche un pochino la legge. Speriamo che non capiti in questo caso. Comunque noi cercheremo solo vanamente di capire che cosa deve provvedere a fare. Come vi abbiamo già detto in apertura, oggi siamo ritornati con una nuova puntata sulle misure anticrisi del governo. Oggi siamo ritornati sulla nuova formulazione del provvedimento sulla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli immobili. Ci sono delle novità per il contribuente che vuole avvalersi di questo bonus, abbiamo già spiegate alcune. Intanto per i lavori che verranno eseguiti a partire da quest'anno e per il prossimo anno, la rateizzazione del bonus che il Ministero dell'Economia ci restituisce avverrà in 5 anni e non più da 3 a 10 come nella precedente disciplina. C'è una seconda novità che è rappresentata dall'obbligo per il beneficiario di questo bonus di inoltrare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro, su questo punto, prima di spiegare come funzionerà, perché in realtà la questione non è ancora perfettamente disciplinata, sentirei una domanda di Giuseppe da Piacenza e poi entriamo nel merito di questo punto. Giuseppe. Sì, buongiorno. Sì, pronto? Ci siamo Giuseppe, siamo qua per lei. Va bene, buongiorno. Volevo fare una domanda. Siccome io ho già inoltrata la domanda di una ristrutturazione di due appartamenti, sub 1 e sub 2, e praticamente ho già fatto le detrazioni, ho presentato la certificazione tramite il termotecnico all'Enea. Adesso quest'anno sto facendo l'altro appartamento. Devo presentare ugualmente la domanda all'ufficio dell'entrata oppure è valida quella dell'anno scorso che ho presentato per il recupero del 36%? Giuseppe, allora qua si sta trattandosi di due unità abitative diverse, ingegnere no, Erba, magari poi sentiamo anche Giorna. Allora, capiamo un attimo, lei ha fatto un intervento di ristrutturazione e ha detratto del 36% nell'altro caso. Giuseppe. Del 36% in generale per le ristrutturazioni dell'edilizia. Quindi adesso lei fa altre tipologie di intervento e vorrebbe fare sempre il 36% o il 55%? Il 55% l'ho già fatto per il sub 1. Ho fatto il tetto precedentemente, ho fatto il recupero del 36. L'anno scorso, nel 2008, ho fatto il 55 per la caldaia, per i riscaldamenti, per il condizionatore, e quindi ho già presentato tutta la documentazione con la all'Enea. Va bene. Quindi quest'anno dovrei recuperare il 55%. E con il primo appartamento siamo a posto. Lei dice se tutto quello che ha già fatto può valere anche per il secondo? Sì. Oppure devo presentare alla... No, sarà un'altra pratica, perché comunque l'edificio è diverso e l'intervento è un altro intervento. Quindi lei dovrà fare un'altra pratica e ripresentare la documentazione all'ENEA per quanto riguarda il 55% ed eventualmente il resto per il 36%. Con la novità che quest'anno dovrà fare anche la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Sì. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, per il discorso 55% dovrà fare le stesse cose, in più dovrà fare questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Però è una pratica diversa, quindi infatti dovrà rifare tutto. L'unica cosa che potrebbe magari tener buona, nel senso, è proprio il conteggio del termotecnico a livello di certificazione energetica che gli avrà fatto. Quindi se gli ha fatto il calcolo di fabbisogno sul primo edificio e il secondo non è molto diverso, potrebbe fare una valutazione e vedere magari che può essere simile. Ecco, poi dipende da tante cose, purtroppo. Però la pratica credo che proprio sia una cosa distinta. Zandonà, insomma, lei a spanne... Sì, questo è un intervento differente, sicuramente dovrà fare le nuove comunicazioni all'ENEA come nuovo intervento, a meno che poi non sia un intervento di continuazione, ma qui sono due interventi differenti perché sono due diverse unità immobiliari. Infatti. Ovviamente bisognerà vedere quando uscirà a fine febbraio il decreto. Ecco, esatto. Che cosa deve stabilire questo nuovo intervento, Zandonà? Innanzitutto sarà una comunicazione, il decreto stabilirà, sicuramente sarà una comunicazione da inviare, si dice in via telematica e non anche in formula cartacea raccomandata, così come copre il 36%. Sarà sicuramente preventiva, in cui uno dovrà comunicare l'avvio dei lavori, quindi se il signore ha già iniziato i lavori nel 2009, nel mese di gennaio, magari daranno dei termini per inviarla per gli interventi già iniziati a gennaio 2009. Come so, forse magari una questione preparatoria per il Ministero dell'Economia per stabilire in via preventiva quanto potenzialmente potrà spendere in un anno. L'obiettivo è proprio questo, che il Ministero sa in base alle istanze quanti sono i fondi che deve mettere a copertura finanziaria dell'agevolazione. Quanto deve tirar fuori il bancomat, come aveva detto Tremonti. Per impedire quello che è avvenuto l'anno scorso, che dalle troppe domande alla fine non c'era più copertura finanziaria del provvedimento. Tanto che è avvenuta anche la tentazione di eliminare il beneficio a dicembre. Fermo pensando che per esempio bisogna anche tener conto che qui è tutto fatturato, documentato, e quindi c'è anche un'emersione del nero dal fatto che si fanno direttamente le fatture, si indica il costo della manodopera, quindi l'operazione va vista nel complesso. E infatti, che era un punto sul quale, ingegnere Erba, ci eravamo lungamente soffermate anche nell'altra puntata. Sì. Esattamente. E ultimo aspetto, magari c'è anche una terza novità, perché c'è un ulteriore intervento. Che il Ministero dell'Economia entro 30 fare. giorni, quindi entro il 27 di questo mese dovrebbe uscire questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In più dovrebbe uscire un nuovo decreto che dovrebbe semplificare le procedure. Il decreto di riferimento per tutta la procedura di richiesta delle detrazioni a livello tecnico e fiscale e quant'altro è quello del 19 febbraio 2007, quindi fa riferimento ancora alla finanziaria del 2007, però diciamo che è il decreto di riferimento. Poi ne sono usciti altri di modifica, di chiarimenti. Questo decreto, che dovrebbe uscire entro fine mese, entro il 27 di febbraio, dovrebbe andare un po' a modificare questo decreto del 19 febbraio 2007, semplificandolo, così dicono. Quindi aspettiamo questi due documenti, comunicazione Agenzia delle Entrate e questo nuovo decreto di modifica per la procedura. Una domanda di un ascoltatore al 349-238-6666, se no coloro che ci scrivono non li accontento mai e hanno anche ragione. Allora, ho cambiato gli infissi, eseguiti i pagamenti entro il 31 dicembre scorso, devo ora compilare il modulo ENEA, modello F, avrei la necessità di sapere se la cifra da indicare su tale modulo è quella lorda con IVA e quale superficie indicare, metri commerciali. In merito all'Agenzia delle Entrate non devo fare nessuna richiesta, no, su questo sono abbastanza tranquilla io di poterle dare una risposta. Per quello che riguarda invece la prima parte, magari ci facciamo aiutare da Zandonà. La modulistica dell'ENEA, non so se la conosce a menadito Zandonà, però ecco, l'importo da indicare è quello lordo con IVA? Sì, devo indicare anche l'IVA, perché l'IVA è detraibile per le persone fisiche, cioè rientra nell'ambito degli importi su cui si commisura la detrazione. Quindi per il privato l'IVA non è una partita di giro, ma è un elemento di costo e rientra nella detrazione del 55%, quindi va indicata anche quell'importo. Quale superficie dell'appartamento deve indicare? Metri commerciali? Beh, adesso io non ho presente esattamente la modulistica ce l'ho presente, però ci sono diverse cose che vanno indicate. Va indicata la superficie in questo caso del serramento, quindi la superficie totale di quello che è l'infisso, per capire da che parte passano le dispersioni fondamentalmente. Non ricordo di altre superfici richieste in questo momento. Magari, visto che l'ascoltatore tra l'altro non si firma, se ci vuole scrivere ci documenteremo meglio in separata sede. Massimiliano da Verbania, avevo promesso di sentirla, invece l'ho fatta ancora aspettare. Benvenuto. Un problema, grazie. Eccoci a lei. Allora la domanda è abbastanza semplice. Io ho effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia nel 2002. Avevo raggiunto il tetto massimo, che ora non ricordo quanto fosse, forse 80-90 mila euro. Nel 2002 avevamo già, mi scusi un attimo Massimiliano, avevamo già gli incentivi fiscali? Il 36%. Il 36% sì, già nel 2002 sì, c'era sì. Già. Sì, mi scusi Massimiliano, così mi era passata in mente questa curiosità. Sì, sì, mi ricordo che c'era il 36%, si recuperava in 10 anni. Se lo va a recuperare. Esatto, in 10 anni. Ecco, sì. Adesso dovrei fare un ulteriore intervento di ristrutturazione sulla stessa unità abitativa, quindi creare praticamente una taverna. E parlando con l'architetto, appunto volevamo fare un intervento appunto di tipo cioè improntato sul risparmio energetico. La domanda era semplicemente se la cosa si può accumulare alla detrazione che già sto perché lei la sta continuando ancora a ricevere. Beh, quindi ingegnere Erba, sì, la mia risposta è che per i lavori che ha fatto nel 2002, per cui ha avuto la detrazione del 36, quelle continuano a esserci. Adesso farà dei lavori diversi, quindi per i lavori che fa adesso lei può richiedere il 55%, anche se è sulla stessa struttura, però sono lavori di tipo differente, di tipo diverso. Quindi tra l'altro nel frattempo arrivano anche altre domande. Invece un ascoltatore, per esempio, o un'ascoltatrice, anche in questo caso non si firma: per valutare il vantaggio energetico come risparmio si deve essere in possesso del certificato o attestato energetico della casa? Erba, mi aiuti a orientarmi in questa domanda? No, allora, perché i moduli dell'ENEA fanno una richiesta ben precisa a livello di quant'era il fabbisogno energetico del mio edificio, della mia casa prima, e quant'è il fabbisogno adesso, per vedere che effettivamente ci sia stato un risparmio. E il calcolo del fabbisogno energetico è nell'attestato di qualificazione energetica che parlavamo prima. È un calcolo che viene fatto dal termotecnico, comunque dal tecnico qualificato, e nell'attestato di qualificazione o certificazione energetica. Tanto per capirci, se uno ha al modello, comunque gli danno un valore, è in kilowattora metro quadro annuo. Tanto per capire, uno va a vedere l'unità di misura, quello è il fabbisogno. Allora, questo tra l'altro è un aspetto molto importante, cercare di stabilire se ricorrono i requisiti tecnici per poter ottenere il bonus, perché non è detto poi che ci si impegni in lavori molto onerosi dal punto di vista finanziario e poi sia scontato invece l'automatismo della restituzione da parte del Ministero dell'Economia. Quindi forse magari, Erba, vale la pena, prima di avventurarci in questi lavori, di capirlo sin dall'inizio, se possiamo. No, certo. Chi è caduto? Erba. Certo, no, beh, è importante affidarsi a dei tecnici qualificati, a un'impresa qualificata che sappia esattamente che la tipologia di lavoro rispetta i limiti previsti dalla legge. Una parentesi è che i limiti per legge, a prescindere dalle detrazioni, della regione Lombardia, che ha anticipato dei limiti che le altre regioni hanno nel 2010, sono gli stessi richiesti dalla legge per le detrazioni. Quindi in realtà in regione Lombardia, se uno fa le cose in regola e rispetta la legge, può chiedere già le detrazioni, perché sono gli stessi limiti. Mentre altre regioni hanno dei limiti meno restrittivi, che sono quelli che ci sono sul 311, quindi sulla legge nazionale, per cui per richiedere detrazioni devo fare qualcosa di più. Ecco, comunque diciamo che limiti. Ma ci sarà poi una tendenza ad uniformarsi da questo punto di vista da parte delle leggi, o comunque non c'è un obbligo? Il concetto è quello che abbiamo detto all'inizio, che ci sono delle regioni che hanno legiferato in maniera autonoma, e le regioni che hanno legiferato in maniera autonoma hanno praticamente ridotto anche i limiti sulla termica, diciamo sulle dispersioni termiche. Le regioni che non hanno legiferato in maniera autonoma fanno riferimento alla legge nazionale, che è il decreto legislativo 311, dipende, che ha dato dei parametri, condizioni climatiche in cui una regione... dipende ovviamente dalle condizioni climatiche, dipende dalla tipologia di edificio, cioè questi limiti dipendono da tanti fattori. Ci sono delle tabelle che danno questi limiti sulla trasmittanza termica dell'edificio o sul fabbisogno termico dell'edificio o sulla trasmittanza termica delle varie strutture. È importante riferirsi a un tecnico qualificato che dica effettivamente questo intervento rientra nei limiti previsti. Ecco. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Ennio da Roma, cosa le è successo con l'impresa di costruzione che le ha fatto i lavori a casa? No, con l'impresa... Sì. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, allora no, l'impresa sono io. Ah, ecco, mi scusi. No, vabbè, avevo detto male. Allora, volevo dire questo. Il problema è, noi abbiamo ristrutturato completamente una villa e abbiamo anche praticamente fatto lavori di coibentazione e sostituito gli infissi. Ora, proprio perché si chiedevano i bonifici come pezza d'appoggio per quanto riguarda la richiesta della detrazione del 55%, noi abbiamo chiesto... Come pezza d'appoggio in che senso, Ennio? Nel senso che gliel'hanno chiesto magari di no, fare a dicembre per poter... No, si dice che senza praticamente il comprovato pagamento, la fatturazione del materiale utilizzato, dei lavori effettuati, sempre con queste appunto pezze d'appoggio per fare richiesta della detrazione del 55%. si chiede nel bonifico anche la dicitura, diciamo, lavoro effettuato per sostituzione infissi o, che ne so, coibentazione del piano seminterrato, va bene? Sì. Oh, il problema è che noi, chiaramente, avendo effettuato anche altri lavori, chiaramente a stati d'avanzamento lavoro mensile il bonifico e la fattura era in toto, cioè era anche per altri lavori, quindi non potevo menzionare nel bonifico del mese se quella cifra si riferisse ad un lavoro specifico, certo, tipo, che ne so, il committente le ha versato 2000 euro per due infissi, non lo so, una cosa del genere, no? Ecco, non potevo menzionare che era solo per gli infissi, ha capito? Quindi voglio dire, a questo punto come si può fare, visto che comunque io ho sempre la fatturazione dei materiali, diciamo, utilizzati, quindi dei montatori, degli infissi, della coibentazione dei piani seminterrati, come si può fare per avere questa detrazione con questo tipo di pezzi d'appoggio? No, tra l'altro, Ennio, se è un'impresa di costruzioni, un'impresa di ristrutturazione che ci pone questo problema, immagino che riguardi tutti. Valeria Erba, che impressione ha? Cioè, no, allora, io almeno mi sembra di aver capito che la domanda è, lei dice, io ho fatto un certo tipo di lavoro, ho fatto una fattura globale su tutto il lavoro, diciamo, per chiarire un attimo le cose. Quindi il proprietario di casa le va a chiedere una fattura invece che scorpori i lavori che sono detraibili. Non dovrebbe essere difficile stabilire, Ennio, quanto fa pagare al committente il rifacimento degli infissi? Dovrebbe scorporare, diciamo, una parte che possa essere relativa a quelli che sono gli interventi di riqualificazione energetica e fatturarla con manodopera esclusa. Abbiamo ancora Ennio, per caso, Peter, al telefono. Ennio, è ancora con noi? Sì, sono al telefono. Ma le risulta molto complicato fare un tipo di lavoro? No, dicevo, ma parlo che dell'anno scorso, chiaramente, perché abbiamo effettuato il lavoro nel 2008. Quindi adesso queste fatture mensili che noi abbiamo praticamente fatto, chiaramente oggi scorporare gli importi io sì posso farlo, ma non con la ricevuta che è la copia del bonifico che ha il committente. Cioè, allora io, come una cosa forfettaria. Allora io adesso poi magari chiediamo anche all'altro esperto. Io credo che quello che valga fondamentalmente sia il bonifico, cioè che sul bonifico poi sia stato effettivamente messo che è relativo alla fattura tal dei tali, che poi nella fattura però devono essere descritti tutti gli interventi. Quindi se nella fattura sono descritti tutti gli interventi, tra i quali c'è anche l'intervento per cui è stato fatto il bonifico, io credo che possa andare bene anche in questo modo. Però sentiamo Zandonaco che considerazioni trarre dal punto di vista fiscale da questo caso. Beh, nel caso di specie bisogna innanzitutto specificare che con bonifico bancario c'è l'obbligo di pagamento delle spese che fruiscono della detrazione. Se il soggetto, ovviamente, quindi se è un appalto complesso in cui c'erano diversi tipi di interventi, il committente poteva pagare solo le spese relative al risparmio energetico e quindi metteva la norma di legge nella causale di versamento e stava a posto. Se ha fatto un bonifico per tutto, allora in questi casi il consiglio che posso dare io è fare una dichiarazione dell'impresa in cui dico ti ho fatturato 120 sono l'importo relativo agli infissi, perché l'impresa poi avrà la sua contabilità di cantiere e allegare in ogni caso, se quando chiedono la documentazione, questa attestazione, perché altrimenti il soggetto si potrebbe ritrovare con il 55 l'intero importo e non solo quello relativo ai lavori di risparmio energetico. Quindi magari o nella fattura è stato indicato 100 di cui 20 per gli infissi e così poi Infatti, questa è già una che era lo scorporo che indicava Valeria Erba, esatto. Oppure ovviamente si fa rilasciare, se non è stato fatto, una certificazione, dice guarda, di questi 120 era relativa agli infissi, quindi una certificazione che però corrisponde alla contabilità dell'impresa che eventualmente si può allegare al momento della dichiarazione dei redditi, no? Esatto. O dichiarazione dei redditi, o se fa uno fa anche il 730 glielo chiederà il CAF, oppure in dichiarazione adesso non si allega niente, però si conserva tutta la documentazione e si esibisce a richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Questo caso però sicuramente ci può impartire qualche suggerimento su come comportarci anche con l'impresa alla quale ci rivolgiamo per fare i lavori nella nostra abitazione. Sì, cerchiamo di essere massimamente precisi anche nel fare pagamento per singoli interventi, non lo so, a questo punto. L'ideale è scorporare quelli che sono gli interventi che io posso detrarre col 55% e poi il resto, se ho il 36 lo farò nel 36, comunque cercare di scorporarli. e se non è fattibile o se è già stato fatto come in questo caso, appunto si farà una dichiarazione o qualcosa di differente. Certo che da questi microfoni sembra tutto tanto facile, invece io che comunque qualche lavoro a casa devo farlo mi sono già spaventata, chissà insomma che non cambi idea, no, però bisogna farli. Andrea da Mantova. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ospiti. Grazie. Volevo fare una domanda, due insomma. Allora, io ho fatto il primo bonifico con la detrazione del 55% l'anno scorso. Sì. Poi non ho chiuso la pratica per i movimenti che ci sono stati, eccetera. Adesso posso riprenderla sempre con la detrazione da 3 a 10 anni in base all'IRPEF comunque? Oppure no? Credo che lei no, questo diritto ce lo avrà per la prima parte di lavoro che ha fatto, Zandonà, per quello che riguarda invece la seconda per parte. Per le spese sostenute nel 2008, in sede della dichiarazione 2009, potrà optare tra 3 e 10 anni. Per le spese che adesso di continuazione che verranno sostenute nel 2009, in sede di dichiarazione 2010, dovrà chiaramente, c'è solamente la scelta 5 anni. Quindi questa è la ripartizione differente. Però, insomma, Andrea, adesso se non sono lavori e se lei non è in una situazione di incapienza fiscale potenziale per i prossimi anni, voglio dire, non cambia niente. Allunga un po' il periodo della restituzione, Zandonà. Esatto. Non è... Quindi per il 2008 può comunque recuperarlo in 3 anni, quello che ha speso nel 2008. Nel 2009 avrà un periodo più lungo, in 5 anni. È fantastica la domanda di Ciro, che ci arriva al 349-238-6666. Devo sostituire i pavimenti di casa, posso usufruire di qualche detrazione? E soprattutto che pavimento posso scegliere, Ciro? Ma magari noi potessimo vedere la sua casa e darle qualche suggerimento. Io scelgo il parquet sempre e comunque, forse anche Valeria Erba. Detto questo, per la pavimentazione bonus del 55%. Per il facimento solo della pavimentazione, no, ecco. Può eventualmente, se è una manutenzione straordinaria, chiedere il 36%. Il 36%, che comunque non c'è da buttare via proprio niente in questo momento. Vediamo un po' l'ultimissima domanda di oggi. Stefano da Catanzaro. Stefano? Pronto, buongiorno, grazie. Rapidissimo Stefano, perché dobbiamo chiudere. Sì, rapidissimo, simile a quella del una caldaia a condensazione effettuato nel 2008, però asseverazione del tecnico e pagamento del tecnico che effettuerò adesso nel 2009 entro i 3 mesi. Posso fare un rimborso unico oppure devo portare in detrazione dichiarazione 2009 per il 2008 in 3 anni la caldaia e dichiarazione 2010 la spesa del tecnico in 5 anni della dichiarazione della spesa del 2009. Stefano, mi stanno annuendo dallo studio, lei ha capito tutto perfettamente come funziona. È così, perché vale il pagamento, se pagamenti effettuati nel 2008 valgono i 3-10 anni, pagamenti effettuati nel 2009 valgono i 5 anni. Ho adorato gli ospiti di questa mattina perché mi hanno aiutato a capire anche molti dubbi, grazie per essere stata con noi l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico, fonte di tantissime informazioni per chi ne avesse bisogno, e grazie anche al dottor Marco Zandonà. Zandonà, presto. Buongiorno, a presto. Lo rimandiamo a scrivere per il Sole 24 Ore. Salvadanaio torna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.